later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli le stagioni sono sempre quelle di una volta, Kappa e Drago stanno finendo i filtri. Ma no, ma i veri fumatori, Drago, non mettono mica il filtro quando rollano le sigarette, dai. Sì, lo so, Kappa, ma se non faccio il filtro mi va tutto il tabacco in bocca. Se rolli bene non dovrebbe succedere. Vabbè, comunque mi sembra che anche tu ti faccia le sigarette col filtro, quindi il problema rimane. Guarda, ho finito la riserva di biglietti da visita che avevo nel portafoglio, è finita. Ho finito i biglietti usati del metrò, ho anche finito il blocchetto da 10 di biglietti nuovi del metrò. Adesso non ho più niente da prendere, da strappare, da intaccare. Io per fortuna però ho una copia di Tremsche con la copertina floscia, e se vuoi ti do un pezzo della quarta. Ma cos'è Tremsche? Tremsche. 3 metri sopra il cielo, ma senti qua, senti la quarta. C'è una frase tratta dal blog di Moccia, Drago. È un lettore di Tremsche che scrive... Quando hai la fortuna di imbatterti in un libro come questo, li leggi in una sera e poi vorresti non averlo ancora letto. A parte che è sbagliata come frase, perché quando hai la fortuna di imbatterti in un libro come questo, li leggi in una sera, li leggi cosa? E poi se un libro, dopo averlo finito, vorresti non averlo ancora letto, vuol dire che non ti è piaciuto, scusa. A essere cattivi sì, però uno che scrive una frase come questa sicuramente è contento di averlo letto, Tremsche. Forse per via dell'ancora, no? Vorresti non averlo ancora letto, allora salvi con quello. Ma tu com'è che ne hai una copia, scusa? È per spirito di sacrificio, perché ho deciso che almeno questa copia non andasse in mano a un ragazzino intelligente, trasformandolo immediatamente Il romano illetterato! Lo dico io come cambia la rumba, non coi soldi. Se qualcuno si incazza, cambia la rumba. Io ho una vita che sto incazzato. Ti odio di più, Massimo, gli dà la roba che ti dà una pizza e la vanno fuori dalla casa. Ti arriva una padellata in faccia la prossima volta, Te lo dico proprio. 7, 10, Massimo, non ti allargare, che nemmeno mi frega anche. Manca a me, allargare. La fabbrica di polli. Però Kappa, la polemica tra i romani e il resto del mondo va avanti dai tempi di Romolo e Remo. Sì, ma è Roma resto del mondo o Lazio resto del mondo? Bisognerebbe chiedersi anche questo. Però se ci pensi, la prima intifada i palestinesi non l'hanno mica fatta contro lo Stato di Israele, ma contro l'esercito romano. E i romani sono anche stati i primi a sperimentare quanto fosse seccante avere un impero e accorgersi che in una zona remota di quell'impero un leader religioso barbuto va dicendo cose strane. Totti. Ma cosa Totti? Era Gesù, no? Io mi riferivo a Gesù. No, pensavo che Totti è Roma, Drago. Totti è Roma. In una sola persona c'è tutta la storia di una città. Totti. Scusa, ha polemizzato con mezzo mondo. Sì. Ha sputato a Paulsen in Mondovisione. Ha spintonato perfino il suo massaggiatore dopo essere stato espulso per la 100ª volta in carriera. Totti è Roma. Sì, vabbè, ma Roma è stata Caput Mundi per un sacco di tempo, no? Totti è stato Caput Mundi 9 mesi, dai mondiali vinti da fermo al 7-1 contro il Manchester. Vabbè, adesso io di calcio lo sai che non mi mischio. Comunque, Alberto Fortis, non vogliamo citarlo? Scusa, è stato lui il precursore di Bossi. Fortis, a voi romani, l'ha scritta molto prima che la Lega nascesse. Anche prima che Silvio Muccino nascesse. Strano, eh? Dice che stai a fa, dico, sto a cucinare. Dice che stai a cucinare, dico, sto a fa i pizzoccheri a Valtellinese. Dice, te sei ammattito, ma fatte una matriciana, dico, non c'avevo in casa manco netto de guanciale. Dice, cazzo, me chiamavi te, portavo tutto il maiale. Semo de Roma e niente ci può cambiare, ci piacciono i polli, l'abbacchio, le galline, non ci piace il baccalà, semo di Roma, e questa la verità. La fabbrica di polli. Tarek, hai fatto altri piercing? Piercing! Adesso ti fa male, eh? Sì. Ci credo, sei praticamente tutto in cacrena. È cacrena! Ma non è bello avere delle parti del corpo in cacrena, eh? Ma guarda che schifo! Non ti sei dato una disinfettata a me? Ma scusa, il lucchetto al becco potevi anche evitartelo, eh? Ma sei un deficiente? Deficiente! Sì, ma tu è meglio se ti immergi in una vasca d'acqua ossigenata, ma te lo dico io. Ecco, dai, vieni qua. Dai, dai, brucia un po', ma che sarà mai, no? Almeno ti disinfetti un po', no? Dai, su! Dai, dai, è finito, dai, ecco. Poi facciamo un passaggio anche nella soda caustica, eh? No, soda caustica, no! Eh sì, eh? Come il divorzio all'italiana di Pietro Germi, eh? Le nozioni di primo di classe. Insieme divorzio all'italiana di Pietro Germi. 1914-1974, Marcello Mastroianni desideroso di uccidere propria noiosa moglie con baffi Daniela Rocca, sogna di immergerla in vasca piena di soda caustica con risultato di spolpamento completo di povera moglie, che restano poi solo di capelli e unghie e denti. Ach, che fine orribile povera moglie di Mastroianni, Maestro Hans. Molto cattivo, ja. Mastroianni, Maestro Hans. Attività omicida coordinata, attività motoria incontrollata, dalla coscienza la sua presenza si manifesta durante il sonno. Ecco il killer sonnambulo, ti uccide senza dirtelo e forse non sapendo. Rischi di andare in cancrena, eh? Cioè, non una parte del tuo corpo, ma tutto te stesso in cancrena, eh? Ti piacerebbe essere il primo polo in cancrena della storia? Polo in carpione ce ne sono stati tanti, eh? Ma polo in cancrena mai nessuno, eh? Carpione! Sì, ma lo sai cos'è il polo in carpione? Allora, praticamente, no? Tu prendi il tuo petto, lo tagli a fettine e lo metti a friggere in 15 grammi di burro. Poi cipolla, carota e un po' di bianco secco. Poi prepari una brodaglia composta da 2 bicchieri di aceto, 4 foglie di salvia e un po' d'olio d'oliva, ma non troppo. E metti il tuo petto fritto a mollo nella brodaglia. Aspetti qualche ora e mangi. E questo è il policarpione, eh. Invece il policacrena è un grumo organico di pus che appena lo sfiori caccia un urlo di dolore tremendo, eh. Aia, aia, cancrena! Eh sì, cancrena, eh. E di cancrena si muore, eh. Che cosa succederà adesso? Tarek diventerà il primo pollo in cancrena nella storia dei polli? E se sì, dovrà davvero morire? Lo saprete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo paramedico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muore quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com. Barlumen.